Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e ben ritrovati a Salva Danaio. A me la banca ha detto che il decreto non c'è, pertanto non fanno nulla. Max dalla Popolare di Milano. E Max, nella sua condizione ci si ritrova un po' in tanti, per la verità, in questo momento. Siamo ancora infatti in attesa, siamo a metà febbraio, che si definiscano con precisione le modalità con cui le banche devono applicare lo sconto sulla rata del mutuo a coloro che hanno un mutuo appunto a tasso variabile e versano ancora, diciamo che la platea degli interessati si è molto ridotta recentemente, un tasso di interesse superiore al 4%. La vistosa discesa dei tassi di interesse sta riducendo la portata delle rate per tutti coloro che le avevano viste lievitare oltre misura fra il settembre e l'ottobre scorsi, quando gli Euribor erano volati sopra, ben al di sopra del 5%, e per molti l'utilità del provvedimento varato nei mesi scorsi dal governo si è del tutto vanificata. Ma in ogni caso il provvedimento c'era, è stato messo in campo senza però avere traccia delle modalità operative. Allora oggi facciamo il punto della situazione, ancora una volta chiedendo chiarimenti a chi senz'altro ne sa più di me. Maximilian Cellino, Plus 24, Il Sole 24 Ore, bentornato. Buongiorno a te e agli ascoltatori. E bentornato anche a Massimo Roccia, direttore centrale dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane. Roccia, bentornato. Buongiorno a voi. Il numero verde per i vostri interventi è l'800240024, il numero invece per i vostri messaggi è il 349-238-6666. Facciamo ovviamente un po' il punto della situazione per capire di che cosa realmente siamo in attesa, di quali comunicazioni da parte di chi e soprattutto qualora arrivassero poi come si comporteranno le banche. Così studiamo un po' un ventaglio di ipotesi. In tutto questo ricordiamo che in realtà c'è qualche banca che la restituzione dell'eccedenza della rata l'ha già fatta, un numero limitato appunto di istituti, forse Maximilian solo uno? O c'è anche qualcun altro? Ma con certezza sappiamo di uno, però visto che qualche messaggio arriva di persone che hanno ricevuto una... Magari qualche piccolo istituto di credito forse si è mosso, magari chiederemo anche a Massimo Roccia se ne sa qualcosa di più. E allora, questo è il tema di questa mattina, sul quale come sempre vi invito a raccontarci la vostra, a spiegarci la vostra situazione. Nel frattempo la borsa vive una giornata positiva, dopo essere stata piuttosto indecisa nel corso degli ultimi giorni, colpa di tante situazioni, ancora della situazione economica molto delicata, molto precaria. Oggi abbiamo i diversi dati sul prodotto interno lordo, un calo molto preoccupante per quello che riguarda la Germania. Nell'eurozona nel quarto trimestre c'è un arretramento per l'economia dell'1,5%, mai si era andati così in basso, e insomma il quadro è piuttosto preoccupante anche per quello che riguarda il nostro paese, che vede l'economia appunto arretrare dello 0,9%. Per quello che riguarda la borsa, dicevamo, Milano sta perdendo in questo momento, guadagnando l'1,33%, visto che parlavo di PIL, il segno meno, insomma, ero stata contagiata anche per quello che riguarda il riferimento sui mercati azionari. STM, miglior titolo della seduta, più 5,61%, segue Geox, più 4, Telecom, più 3, Intesa San Paolo, più 2,83%, Tenaris, più 2,60, Finmeccanica, più 2,41, più 2 anche per Fondiaria, per la Popolare di Milano e per Eni, che ha tra l'altro comunicato i suoi dati proprio questa mattina e sembrano evidentemente piuttosto positivi. Il gruppo ha confermato la distribuzione del dividendo di 1,30 euro, di cui parzialmente c'è già stato tra l'altro un acconto. In difficoltà invece Snam Rete Gas, c'è una riorganizzazione interna ad Eni e Snam Rete Gas che vede appunto Snam penalizzata stamattina in borsa del 4,30%, ancora in calo Seat Pagine Gialle, meno 2,32%, A2A meno 1,66%, Terna meno 1,36%. Noi però andiamo rapidamente al tema di questa mattina e ritorniamo sui mutui. Mentre negli Stati Uniti i pignoramenti continuano a mietere vittime, la discesa dell'Euribor raffredda le rate dei mutuatari italiani. Prosegue infatti inarrestabile da qualche mese a questa parte il calo del tasso interbancario, a cui è indicizzata la maggior parte dei mutui variabili, che in soli 3 mesi è passato dal tetto massimo del 5,39% a un livello inferiore al 2%, lo stesso di circa 5 anni fa. E se qualcuno ha già iniziato a godere degli effetti della discesa, altri dovranno pazientare ancora un po'. Di conseguenza, continua a ridursi anche la platea dei potenziali destinatari del cosiddetto tetto del 4%, introdotto dal governo a sostegno dei mutuatari in difficoltà col pagamento delle rate. destinatari che sono ancora in attesa di capire se e in che modo potranno usufruire di questa iniziativa, considerato che non sono ancora arrivate indicazioni precise. Tace infatti il governo, che dovrebbe varare i regolamenti attuativi per consentire alle banche di iniziare a rimborsare i propri clienti, e tace l'Agenzia delle Entrate, cui spetta il controllo della sussistenza dei requisiti dei potenziali beneficiari del tetto. Un chiarimento per ora è arrivato circa i mutui oggetto di cartolarizzazione, che, secondo una circolare del Ministero, rientrerebbero nel tetto. Ancora irrisolti, invece, i dubbi sul tasso misto. Rientra o non rientra? E in caso di surroga o rinegoziazione, quale data bisogna prendere in considerazione per godere del tetto? E proprio in tema di rinegoziazione, sarebbero circa 46.000 gli italiani che hanno scelto di aderire nei mesi scorsi alla cosiddetta Convenzione Tremonti-ABI, quella che permette di riportare le rate, che diventano fisse, ai livelli del 2006, consentendo così di abbattere l'onere mensile dei mutui. I soldi non versati oggi, però, saranno dovuti domani, quando alla scadenza del mutuo bisognerà restituirli alla banca, interessi compresi. 800 24 0024, numero verde per i vostri interventi. Prima di cominciare la nostra chiacchierata con i miei ospiti di questa mattina, Maximiliano Cellino di Plus 24 e Massimo Roccia dell'ABI, sentirei invece due ascoltatori che hanno già ricevuto la restituzione di questo importo. Cominciamo con Fabrizio, dalla provincia di Ancona. Fabrizio, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, io sono di quelli fortunati, ho stipulato un mutuo a tasso variabile con ING Direct nel 2005 e nel mese di gennaio ho ricevuto un bonifico da parte loro di, per carità, 22 euro mi sembra. Ho telefonato, mi hanno detto che appunto era inerente proprio al discorso del... con un tasso superiore al 4%. Io ho già avuto comunque nell'arco di 3 mesi un calo della rata di più di 300 euro, certo. Quindi sono già soddisfatto. Ho un Euribor mensile, l'Euribor è mensile, non trimestrale, e uno spread 0,7. Uh-huh. Quindi insomma la miglior condizione possibile di questo momento, Fabrizio. Come? La miglior condizione possibile. Sì, per fortuna mi è andata bene quando l'ho scelta. No, va bene, ma insomma adesso tra l'altro... Altri, sì, certo. La ringrazio per la sua testimonianza. Adesso tra l'altro c'è anche Ivan da Bergamo che credo voglia raccontarci una medesima esperienza, questo appunto per testimoniare che ING sta già praticando questa politica di restituzione. Sì, Maximilian, sentiamo anche Ivan, anche se poi sembra veramente una mezza puntata fatta a favore di ING, non è così, casualmente, solamente questa è la banca che appunto ha già dato il via operativo al provvedimento. Ivan. Anch'io, buongiorno. Ho il mutuo arancio, è scesa la rata da 490 a 314 come Fabrizio, del resto ho avuto il 29 gennaio un bonifico da ingidare che è di 19 euro, è poco però, testimonia la serietà dell'azienda. La serietà dell'azienda, poi probabilmente magari quando i provvedimenti da parte del governo, dell'Agenzia delle Entrate saranno, come dire, più chiari, quando ci saranno anzi, e quindi quando saranno chiarite le modalità operative che riguarderanno tutte le banche, forse non vorrei che ci saranno altre sorprese per i nostri due ascoltatori, ma non credo che... No, una domanda a Ivan, se è ancora in linea, volevo farla, sì. Se possibile, e per chiarire anche una situazione, un aspetto che ci chiedono in molti è se Ivan ha dovuto fare qualcosa oppure se è stata una cosa automatica. Loro. Mi hanno parlato di un decreto legislativo attuato nel 28 gennaio e subito il 29 hanno fatto il bonifico. Allora, questo giusto per dire, per rispondere indirettamente a tutti quelli che continuano a chiedere se devono fare qualcosa, mandare una sollecitazione alla banca, oppure quelli a cui la banca ha chiesto qualcosa, che in realtà questa è la prova che il meccanismo è assolutamente automatico, come del resto ci aspettavamo, perché sia sul decreto sia sulla circolare ministeriale successiva non c'era scritto niente che potesse far pensare a una possibile richiesta da parte del mutuatario. Tra l'altro volevo anche da questa considerazione inizio anche la nostra conversazione con Massimo Roccia. Due ascoltatori che hanno ricevuto appunto il rimborso della quota che a loro spettava. Roccia, c'è un ascoltatore che ci chiede: ma chi può avere oggi un tasso superiore al 4% con l'Euribor così basso? Visto che anche gli spread e l'aumento degli spread si sono registrati negli ultimi mesi. Massimo ha ragione, evidentemente la platea degli interessati al provvedimento si è sensibilmente ridimensionata, però come testimoniano i due ascoltatori che hanno ricevuto il rimborso da parte della propria banca, qualcuno che è interessato potenzialmente al provvedimento c'è. Certamente sì, sono quei clienti che hanno fatto un'operazione che all'inizio aveva uno spread un po' più alto in funzione della natura dell'operazione, cioè sia dell'importo rispetto al valore della garanzia che rispetto al cliente, quindi operazioni fatte con livelli di rata reddito, come si dice, più alte, operazioni che avevano un valore del prestito rispetto al valore del bene finanziato molto alto. Questi clienti riceveranno, speriamo tra poche settimane, non appena l'Agenzia delle Entrate diffonderà agli intermediari l'elenco dei contribuenti per i quali, sulla base delle informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, ricorrono i requisiti, riceveranno da tutte le banche il rimborso della parte eccedente, la rata 2009 sopra il 4%. E questo anche per rassicurare quelli che guardano con invidia magari ai clienti di Mutuo Arancio, ma insomma dobbiamo dar loro una certa sicurezza che riceveranno quello che loro spetta. Assolutamente sì, ma soprattutto mi sembra corretto che si sia operato in modo automatico, tanto le norme prevedono che il rimborso viene effettuato a favore del cliente con valuta uguale a quella dell'addebito della rata, quindi il cliente non sta perdendo nulla anche se dovesse aspettare qualche altra settimana. Invece di converso ci sembra molto interessante e importante il fatto che il provvedimento operi in modo automatico senza che il cliente debba disturbarsi a fare una domanda specifica. E poi magari da Maximilian ci faremo spiegare come mai invece ci ha raccontato che qualche banca sollecita. Ti è arrivata qualche testimonianza diretta, Maximilian? Sì, è arrivata qualche testimonianza. Questo però devo dire era arrivata nei circa un mesetto fa, tra la fine dicembre e i primi di gennaio, quando forse ancora non si conosceva l'esatto meccanismo e anche le banche non conoscevano l'esatto meccanismo. L'idea era di chiedere a alcuni, proprio chiedevano proprio una semplice raccomandata, e questo sembrava proprio una risposta data da persone che non sapevano per il momento che cosa dover fare. Altri invece erano un pochino più circostanziati, perché chiedevano una specie di autocertificazione da parte del cliente che quella fosse poi un mutuo relativo all'abitazione principale. Questo avrebbe già più senso, perché poteva essere un modo per anticipare ciò che poi sarà stabilito dall'Agenzia delle Entrate. Perfetto. Allora, Giuseppe da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Complimenti per la trasmissione. Senti, il mio problema è che c'è un mutuo a tasso variabile e ancora non è sceso sotto il 4%. Praticamente ancora ce l'ho al 4,8. Sono andato in banca e mi hanno detto che devo aspettare aprile per avere l'Euribor di 3 mesi fa, praticamente dicembre. Cioè sì, lei ogni quanto versa la rata, Giuseppe, tutti i mesi? Sì, tutti i mesi, sì. E mensile però... Mensile adesso è arrivata a quasi 6,80. Sì. Sono partito da 5,40. Ho capito. Quando l'ha stipulato, mi scusi Giuseppe? 5 anni fa. E quant'era il tasso? 5,40 che... era, 5,40 e qualcosa. Ma aveva uno spread altissimo, 6,80. Però. 6,80. Sì. Infatti. Sono andato in banca, ho domandato, ho detto che devo aspettare aprile per avere l'Euribor. Sì, quello è vero, Giuseppe. Adesso, al di là poi del provvedimento che potrebbe anche evidentemente intervenire in questo caso. Sì, il provvedimento vorrebbe intervenire, però ecco, per spiegare a Giuseppe e a tutti quelli che sono nella sua situazione, che sono molti. No, che stavo pensando che 5 anni fa comunque l'ha fatto molto oneroso. 5 anni fa dunque era, scusate, il 2004, quindi il tasso variabile l'ho fatto al 3,5. Molto oneroso, sì, molto oneroso. Se era 5 anni fa era molto oneroso. Uno spread al 3%. Però il problema di Giuseppe ci permette di ricordare un fatto abbastanza importante, che si intreccia con quello che diceva prima anche Roccia. Molte persone, stiamo parlando di Euribor ai minimi storici, oggi l'Euribor a 3 mesi è toccato ai minimi storici, le rate ancora non sono scese. Le rate non è che non sono scese perché le banche sono cattive, questo bisogna ammetterlo. Facciamo fatica, ma bisogna ammetterlo. Bisogna metterlo in chiaro. È perché il contratto, il meccanismo di adeguamento della rata al tasso Euribor è un po' ritardato. A Giuseppe mi sembra che stessero parlando del tasso di dicembre. Probabilmente lui paga paga le prime tre rate di gennaio sul tasso di dicembre, che era un pochino più alto di quello, era abbassato, ma un pochino più alto di quello di adesso. Le rate da aprile a giugno le pagherà probabilmente sull'Euribor di marzo e sarà molto basso, quindi i ribassi che vede adesso Giuseppe e molti altri come lui li vedranno a distanza di 2 o 3 mesi. Questo è un tema molto molto importante. Giuseppe e a tutti gli altri li invito ad andare a vedere il contratto, perché sul contratto tutte queste cose ci sono scritte. La banca non può fare la furba e non lo fa. La banca calcola in genere l'Euribor un po' arretrato ed è per questo che gli effetti si fanno sentire qualche mese dopo. Attenzione Giuseppe e gli altri, che adesso ci stanno tra virgolette rimettendo perché il ribasso arriverà più tardi, ma quando i tassi si sono alzati loro hanno adeguato al rialzo la rata con molta più lentezza, un pochino più ritardo, quindi insomma ci sono degli svantaggi adesso, ci sono stati dei vantaggi prima. Allora sentiamo su questo punto anche Massimo Roccia, però gli volevo mettere insieme anche un caso che mi ha suscitato una certa curiosità, quello di Maria Grazia dalla provincia di Siena. Maria Grazia, che cosa le hanno detto in banca sul tetto del 4%? Allora, mi è stato detto che il tetto del 4% sui mutui variabili vale solo per chi ha chiesto alla banca entro il 31 dicembre che il proprio mutuo fosse rinegoziato e allungato nel tempo per poter poi più facilmente far fronte alla rata. Non si intende invece il 4% esteso a tutti coloro i quali hanno contratto un mutuo a tasso variabile tout court e non hanno fatto niente, hanno lasciato le cose come stanno. Allora aggiungo che il mio contratto di mutuo è del 1 ottobre 2004, la banca è la Banca di Roma e la rata è semestrale. Sì, sì, no, Maria Grazia, qua c'è un po' di confusione e comunque, dottor Roccia, possiamo ammettere con grande chiarezza che la banca ha detto una bugia in questo caso, o comunque non è stata chiara. La signora può stare tranquilla, lei rientra appieno nel provvedimento. Visto che però stiamo trattando questo tema, forse possiamo dire due cose ancora di chiarimento. Primo, riguarda i casi in cui gli intermediari chiedono al cliente di compilare un modulo di richiesta, questo si riguarda soltanto i mutui stipulati nel 2008, per i quali l'Agenzia delle Entrate, che si basa su dati anagrafici dei contribuenti, quindi sulle dichiarazioni dei redditi del 2007, non dispone del dato. Allora, per quello, ovviamente, i clienti che hanno contratto il mutuo a tasso variabile nel 2008 dovranno richiedere questo contributo attraverso un modulo a parte. Quindi magari, dottor Roccia, per essere chiari ulteriormente, che cosa può chiedere in questo modulo la banca? Siete rimasti proprietari della vostra casa oppure ne avete acquistata un'altra nel frattempo? Una domanda chiede al cliente di certificare tutti i dati che rappresentano i requisiti di ammissione al provvedimento, ovvero che si tratta dell'abitazione principale, che si tratta di un acquisto, ristrutturazione, cioè tutto quello che è scritto nel provvedimento, ma sarà un modulo semplicissimo che starà in una pagina e che sarà standard a livello di settore, in modo tale che sia molto facile anche diffondere le informazioni ai clienti su come compilarlo. State stabilendo voi come ABI quali saranno i termini di questo? Esatto, in modo tale che ci sia certezza e assoluta omogeneità rispetto all'informazione che gli altri clienti invece hanno in automatico dall'Agenzia delle Entrate. L'altro dato importante è che ovviamente questo provvedimento e questo beneficio si estende anche a chi ha fatto la surroga o la rinegoziazione, perché in entrambi i casi si tratta di un nuovo contratto, essendo la surroga relativa all'ipoteca. Quando si fa la surrogazione, l'oggetto surrogato non è il contratto ma è l'ipoteca. Quindi questi clienti che hanno fatto surroghe negli anni passati su contratti a tasso variabile rientrano anche loro nel provvedimento, possono stare tranquilli e beneficeranno, come pure possono stare tranquilli i clienti dei tassi variabili in generale, perché come è stato perfettamente spiegato loro hanno un ritardo di adeguamento che peraltro gli porta un beneficio tanto più forte quanto più è lenta la salita, e che oggi però gli ritarda soltanto di 3 mesi il godimento del beneficio della discesa del tasso di riferimento. Voi Roccia siete in contatto con l'Agenzia delle Entrate per capire quando questa nota che le entrate devono emanare sarà emanata, visto che comunque interessa anche voi per essere anche prontamente operativi, o no, non ne sapete niente? Sì. No, noi ci stiamo lavorando direi giorno e notte e non è tanto una nota quanto un trasferimento di una massa enorme di dati che va fatto secondo dei canoni di assoluta sicurezza per i clienti e di certezza dell'informazione trasferita. Non siamo lontanissimi, quindi lo sforzo che si sta facendo è immane. Credo sia la prima volta che il godimento di un beneficio per un cliente, peraltro collegato sia al settore pubblico che deve certificare i dati, che al settore privato, come le banche avviene in modo automatico, quindi stiamo facendo uno sforzo, ci stiamo mettendo qualche settimana di più, ma evitiamo a più di 1 milione di clienti di dover fare ognuno un modulo. Allora, io devo dare adesso la linea ai colleghi della redazione per le anticipazioni del GR Extra Large. C'è Paolo da Chieti, a cui chiedo qualche minuto di pazienza. Paolo, perché tra l'altro vedo che il suo caso esula un po' anche dal tema di questa mattina, però lo ascoltiamo volentieri. 10 secondi con Maximilian Cellino. Oltre alla questione che deve essere chiarita da parte dell'Agenzia delle Entrate, quindi l'elenco dei contribuenti che sono ovviamente interessati al provvedimento, c'è anche però la nuova disposizione del Ministero dell'Economia, credo che debba essere emanata una nuova nota del Ministero dell'Economia. Ma sì, l'impressione è che debbano esserci ulteriori chiarimenti da parte del Ministero dell'Economia, che già ha fatto una circolare a fine dicembre e che vanno a risolvere alcune questioni, principalmente sui mutui a tasso misto o le forme ibride, quindi i mutui a rata variabile e quelli con opzione scelta fisso variabile. Ritorniamo a Salva Danaio, alla questione mutui, in attesa che si definiscano le modalità applicative da parte del sistema bancario relative a questo sconto di cui le banche devono teoricamente incaricarsi. Poi in seconda battuta sarà il governo ad incaricarsi di queste cifre. In sostanza il governo aveva promesso tutti i sottoscrittori di mutuo a tasso variabile che versano un tasso di interesse sulla propria rata superiore al 4%, l'eccedenza rispetto a questo 4% la paga lo Stato, però ancora non si capisce bene con che modalità. Aspettavamo un chiarimento delle modalità già da qualche settimana, non sono ancora arrivate, ma dovrebbe essere davvero questione di poco. In ogni caso sarà tutto un procedimento anche di natura retroattiva e ai sottoscrittori appunto di mutui a tasso variabile che hanno diritto a ottenere questo importo, a vedersi restituito questo importo, ovviamente vedranno la restituzione di questo importo a partire dal 1 gennaio. Speriamo di aver chiarito la maggior parte dei dubbi che sono ancora ovviamente tra tutti gli interessati. E in realtà c'è anche un altro punto da chiarire e lo avevamo già introdotto prima della pausa con Maximilian Cellino. Ci ritorniamo, Maximilian, con la domanda anche di Sergio da Milano. Sergio. Sì, buongiorno a tutti. Benvenuto. Io ho contratto un mutuo nel 2005 a tasso variabile prima dell'estate 2008, visto quanto salivano gli interessi, ho chiesto la modifica a tasso fisso, cosa che è avvenuta dopo 3-4 mesi. Ora ho ottenuto un tasso fisso che però è fermo ai livelli del variabile che avevo prima dell'estate, quindi 5, qualche cosa. Io posso avere questo sconto tra virgolette al 4% oppure no? Allora Sergio, in base a quello che sappiamo noi non ci risulta, perché il provvedimento riguarda tutti i mutui a tasso variabile che poi tra l'altro avevano anche un determinato tasso di partenza, che sono stati sottoscritti anche in un determinato arco temporale. Però Maximilian, quello che consideravamo anche a microfoni spenti, tutto sommato rispetto a questo 5%, allora, Sergio, 5 e qualcosa, bisogna vedere quanto è quel qualcosa. Esatto, nel senso che 5,90 o 5,1. Sergio ha fatto la scelta che hanno fatto più o meno consapevolmente molti mutuatari, cioè nel momento in cui nel 2008 c'erano i tassi, gli Euribor, quindi tassi variabili molto elevati, hanno scelto la sicurezza del fisso. Questa è una scelta che poi a priori, a posteriori, potrà rivelarsi giusta o sbagliata, dipenderà dai prossimi anni cosa succederà sui tassi variabili, perché se Sergio fosse rimasto sul variabile adesso pagherebbe molto di meno, ma questo provvedimento del 4% e i tassi bassi, i tassi ai minimi storici, il provvedimento del 4% dura soltanto per 2009, questo lo ricordo un po' a tutti, e i tassi adesso sono storicamente bassi. Niente ci vieta di pensare che da qui a un anno i tassi saranno più elevati e in un futuro anche pluriennale possono ritornare ai livelli elevati del 2008, che hanno fatto tanta paura probabilmente anche a Sergio. Però Sergio ha fatto una scelta, esatto, che l'ha messo sicuramente al riparo da tutta la bufera che è intervenuta sui mercati finanziari e sul mercato bancario anche in settembre-ottobre, e che lo metterà a riparo in futuro. Questo è importante. Sul 5 qualcosa qui bisogna un po' valutare, insomma, chi l'ha fatto al 5,90 adesso ha un mutuo abbastanza caro, chi l'ha fatto al 5,5-10 forse non molto caro. Io vedo che le persone che vanno adesso a fare un mutuo a tasso fisso, sì, Si può anche spuntare un tasso inferiore al 5%, ma non è così semplice. Non è così semplice. Massimo Roccia, tra l'altro, in considerazione, in virtù del quesito che ci ha posto Sergio, possiamo, se lei ci aiuta, rifare un po' un punto della situazione e chiarire di nuovo, come abbiamo fatto già almeno una decina di volte da questi microfoni, però vale la pena ritornare su questi punti, chi sono tutti coloro che avranno diritto alla restituzione di questa, chiamiamola così, l'abbiamo sempre chiamata così, eccedenza. Il provvedimento indica chiaramente che si applica ai clienti titolari di mutui a tasso non fisso e quindi quelli che fino al 31 ottobre del 2008 avevano in essere un contratto che aveva un tasso non fisso. Il cliente purtroppo aveva a quella data, se ho capito bene, un tasso invece fisso e quindi credo che sia escluso da questo provvedimento. La parte ancora non chiarita per la quale infatti correttamente aspettiamo una nuova regolamentazione del MEF riguarda tutti i contratti con opzione, quindi quei mutui che hanno un tasso rivedibile a favore del cliente attraverso un'opzione periodica, libera e gratuita per il cliente di modifica del tasso, ovvero clienti che possono ogni sei mesi cambiare il tasso, e quei contratti cosiddetti misti che sono a rata fissa e durata variabile, cioè che hanno una struttura dell'operazione particolare in cui il cliente garantisce il peso della rata rispetto al suo reddito e scarica di fatto il tasso variabile su una maggiore o minore lunghezza delle rate. Questo è quello che oggi noi possiamo certamente dire e dobbiamo però aspettare che il Ministero dell'Economia, a questo punto credo congiuntamente al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, finisca nella sua attività di regolazione secondaria e ci dia delle istruzioni operative. Però i clienti devono stare tranquilli su questo perché, ripeto ancora una volta, il provvedimento automatico e l'accredito di questo sconto sarà con la stessa identica valuta dell'addebito della rata, quindi non c'è nessuna perdita per il cliente. Intanto stavo notando che molti ascoltatori mi stanno riprendendo per come ho mal interpretato quello che ci aveva detto un ascoltatore ad inizio, Salvadanaio, Giuseppe, che ci parlava del suo mutuo per il quale aveva cominciato un ammortamento con un tasso di interesse che avevo ritenuto piuttosto alto, dato il momento in cui l'aveva sottoscritto, parlava di un 4,80%, invece si riferiva, come mi segnalano molti ascoltatori, all'importo della rata e quindi insomma mi sono un po' confusa perché lui ci dava così l'importo secco 5,40, 6,80, non mi ricordo cosa abbia detto, quindi ho pensato che fosse il tasso, me ne scuso Giuseppe, in ogni caso speriamo di aver chiarito tutto l'altro aspetto della sua domanda. Paolo dalla provincia di Chieti, a lei è capitato però qualcosa di diverso? Sì, io ho fatto un mutuo nel 2003, la rata trimestrale. Nel 2003? Sì. Ho iniziato a pagare 3.250 euro semestrali. A giugno di quest'anno non ho pagato né a dicembre. La rata di a giugno era arrivata a 4.800 euro. Questa poi di dicembre aveva superato le 5.000 in quanto in tutto ammontava oltre gli 5.000 euro. La banca ha spiegato che siccome si trattava di un... sono andato non in crisi, cioè ho una posizione incagliata, sì, e la rata è salita al 9,8%. Sì. Per sapere se la banca può fare questo o no, e l'ha applicata proprio a dicembre, che si parlava di aiuti dello Stato e tutto, cioè questo, le banche non guardano a nessuno, cioè. No Paolo, questa è una questione diversa, nessuno aiuta nessuno, il provvedimento del governo, l'abbiamo spiegato, è stato varato, ha delle modalità applicative che sono piuttosto complicate, come stiamo cercando di spiegare, anche se è molto difficile. Poi io mi rendo conto che quando ci si trova nel bel mezzo di una situazione molto problematica come la sua, effettivamente si vorrebbe che magari gli aiuti di cui si parla fossero applicati alla lettera e nell'immediato. Ha ragione anche lei Paolo, e come lei molti altri che si sono trovati in grosse difficoltà soprattutto nella seconda parte dello scorso anno. Detto questo, la dinamica di questa esplosione di questa rata del tasso applicato alla sua rata non mi è molto chiaro. Massimo Roccia, lei ci può aiutare a capire cosa può essere successo a Paolo, che non ha potuto versare, appunto non essere in regola con il versamento di una rata, e la banca forse in quella successiva gli ha applicato un tasso così vistosamente anomalo, non so. Mi sembra di aver capito che il mutuo originario ha subito un aumento perché ovviamente c'era un parametro di riferimento, credo l'Euribor, e quindi era un mutuo a tasso variabile. Sì. Il cliente è entrato in quello che si chiama incaglio, cioè la rata si è incagliata perché non è stata pagata a scadenza, la banca ha legittimamente applicato degli interessi di mora che si sono sommati all'importo della rata dovuta e anch'esso già aumentato per effetto dell'aumento del parametro. Quindi non è successo nulla di anomalo, però il cliente deve guardare con attenzione, io credo, la sua capacità reddituale futura e probabilmente verificare la possibilità di rinegoziare su una scadenza più lunga che porti la rata al livello di sostenibilità del suo reddito. Infatti, a prescindere da quello che farà il governo, perché anche se per il nostro ascoltatore venisse applicata in tempi rapidi, magari il beneficio della propria rata non è così consistente al punto da poterlo rasserenare pienamente, per cui magari gli conviene fare, nel suo caso specifico, forse una chiacchierata specifica appunto con il proprio direttore e capire se si può rinegoziare questo mutuo magari a lungo. Non si può rinegoziare perché la posizione è incagliata, così mi hanno spiegato, perché io ci sono andato con la legge Tremonti che diceva che si poteva rinegoziare il mutuo. Però adesso non mi ricordo perché la mia collaboratrice mi ha tolto il nome, non mi ricordo come si chiama, mi scusi. Paolo, mi scusi, la rinegoziazione Tremonti doveva essere fatta entro novembre. Lei ci è andato in quel periodo o è andato dicembre? Sono andato prima di novembre. Quindi diciamo, quando si è incagliata la sua posizione? Io ho spiegato che c'avevo i redditi di affitti e questi locali purtroppo chi ha avuto dei problemi di fallimento non riscuoto affitti da oltre un anno e il mio reddito era derivato da questi, dalla valorizzazione. Certo, abbiamo capito. E adesso loro non mi hanno rinegoziato. È 20 anni che lavoro con quella banca, posso dire anche quale banca sì, è? Sì, ma infatti, ma molto spesso, Paolo, non è la prima volta che capita e possiamo avere rapporti anche di 50 anni con la banca, quando ci si trova in situazione problematica che è a loro vantaggio, non si preoccupi che fanno molta, molta facilità appunto a chiudere la porta. Eccoci qua, allora abbiamo sentito il caso piuttosto delicato e problematico di Paolo. Dottor Roccia, stavamo ragionando con Maximilian Cellina a microfoni spenti. La convenzione Tremonti non avrebbe dovuto essere applicata anche a chi era già in ritardo con il pagamento delle rate? Esattamente, quindi credo che ci sia stato qualche problema ulteriore, ma il diritto a favore del cliente posto dalla convenzione ABIMEF sulla modifica, rinegoziazione obbligatoria dei mutui si applica anche a quelli. Io credo che però il caso del cliente dipenda da un fatto specifico. Lui si trova, immagino, all'inizio del periodo d'ammortamento, perché solo in questo caso può avere un peso della quota interesse. No, perché ha avviato il mutuo nel 2003. Ma che mutuo è? A quanti anni è? Domandiamo un mutuo, Paolo, sì, lo possiamo ribadire sì, allora, sì. Paolo. Il tasso variabile trentennale. È apposta, quindi ha fatto un decimo del periodo ammortamento e quindi la quota interesse rispetto alla rata è molto alta. Poiché la quota interesse è alta, se i tassi salgono è ovvio che la rata cresce di molto. Dottor Roccia, non si mette al viva voce perché non la sentiamo bene, scusa. Riprenda la cornetta. Sì. Eccoci qua, stavo dicendo, se è all'inizio, cioè a un decimo del periodo d'ammortamento, la quota interesse è molto alta e questo spiega perché la rata è cresciuta. È cresciuta così. Quello tanto. Che il cliente deve fare è una situazione prospettica dei flussi di reddito propri molto precisa e cercare di nuovo di rinegoziare o con questa banca oppure con una nuova banca sulla base. Il problema è che però essendo già con una questione incagliata, chi lo ascolta in questo momento? Una nuova banca non lo prende neanche in considerazione, dottor non Roccia? Non è detto questo, non è vero, non è detto in modo assoluto. Certo, allora le facciamo scrivere una lettera di raccomandazione per Paolo, dottor Roccia, se lei ci assicura che qualcuno lo prende in considerazione. Adesso, a parte la provocazione che è evidente che è così, però no, non ci risulta che però si può trovare un soggetto, un intermediario che è disposto a fare un'operazione del genere, ovviamente incorpora un rischio più alto e quindi un premio a rischio più alto. Paolo, ci scriva, prenderemo in considerazione in maniera un po' più dettagliata la sua situazione. Quindi magari con la legge Tremonti non riesco praticamente. No, perché ormai è troppo tardi per aderire. In realtà lei avrebbe però potuto insistere con la banca, da quello che ci ha detto Roccia, avrebbe avuto tutto il diritto di poter aderire alla convenzione ABI Tremonti, di riportare la rata sui livelli del 2006. Maximilian, poi avendo anche un tasso variabile, adesso i tassi scenderanno. Al di là della mora, degli interessi di mora che lei se ha delle rate incagliate dovrà continuare a pagare, la sua rata scenderà moltissimo. La sua rata si era impennata perché i tassi Euribor erano saliti, adesso sono ai minimi. Lei ha un mutuo semestrale, può darsi che ci sia un aggiornamento un po' ritardato, ma diciamo che nella seconda parte del 2009 sicuramente avrà rate basse, e se lei ha fatto il mutuo nel 2003-2004 probabilmente anche più basse della rata di partenza. Tra l'altro, Paolo, magari ecco, abbia pazienza per questo motivo e speriamo speriamo nel frattempo che magari con le persone che in questo momento abitano nelle sue case di proprietà e non le versano l'affitto, che si sistemi anche questa situazione e lei possa riottenere un flusso di redditi regolare. Volevo rispondere a molti ascoltatori che con tono anche piuttosto arrabbiato, e scusate se non riusciamo a rispondere a tutti, ma voi non avete idea di che cosa ci arriva ogni giorno, perché non mi rispondete, ci scrive Daniele, io ho un mutuo a tasso fisso, sono un cittadino di serie B, si è perso quantomeno 20 puntate Daniele, perché ogni volta che facciamo i mutui, le facciamo almeno una volta a settimana, andiamo a spiegare qual è la situazione per coloro che hanno un mutuo a tasso fisso, per il quale il provvedimento Tremonti, quello di dicembre, non interviene. Detto questo, se lei si definisce un cittadino di serie B, ci spiace, perché non è così, ha fatto a suo tempo una scelta oculata che l'ha messa al riparo, magari il tasso era alto, definiamolo pure così, però sicuramente l'ha messa al riparo da tutta l'oscillazione del mercato in cui invece molte altre famiglie sono state sottoposte in maniera inconsapevole, in maniera poco intelligente, perché è stata fatta una scelta sbagliata, però a cui sono state sottoposte negli ultimi mesi. Quindi vorrei almeno in questo momento non tornare più sul punto. Domanda secca, un ascoltatore: ho la possibilità di fare un tasso fisso ventennale al 4,5%, lo faccio, dice Mauro. Maximilia si è illuminato. No, è la discussione storica, ne potremo parlare a vita. Col tasso fisso uno si mette a riparo, il tasso variabile adesso è convenientissimo, ma poi la rata potrebbe balzarvi del 30-40%, fatevi i vostri calcoli. Detto questo, il 4,5% ci pare... non è proprio un tasso storicamente altissimo anche per i tassi fissi. Ecco, quello che vi posso dire in questo momento è che l'Euribor di oggi a un mese è 1,63, a tre mesi 1,94, record. Mai visto da quando è stato introdotto, esatto, l'euro. Esatto, sei mesi 2,02, non è record questo, mm-hmm, ma poco ci manca. Per invece i tassi, i mutui a tasso fisso, l'IRS, che si basa sull'IRS, l'IRS a 10 anni, se voi fate un mutuo a tasso fisso per 10 anni è 3,48. A 20 anni è 3,90, a 30 anni è 3,58. A questo ovviamente dovete aggiungere gli spread, cioè il ricarico che fa la banca, che in questo momento, ahimè, nel 2009 sono un po' cresciuti. E quindi io mi spendo per Mauro, io lo fisserei questo mutuo qua. No, io non vi dirò mai sì né no, perché io devo sapere quanto certo guadagna Mauro e quanto guadagnerà nel futuro e qual è la sua propensione al rischio. Però non è proprio male. Non è male, mi sono fermata solo alla mera considerazione di tasso più spread che circola in questo momento. Poi giustamente Mauro, se lei ce la fa vada avanti così, altrimenti valuti la situazione più conveniente alternativa, appunto, che è quella variabile, che in questo momento è molto bassa. Michele da Roma, è rapidissimo perché guardi sto chiudendo, non me ne ero neanche accorta. Michele, dove è finito? Sì. Buongiorno, mi scusi, una domanda per il dottore, per i nostri ospiti, ci dica. Niente, volevo sapere se stiamo aprendo un mutuo a tasso variabile e vedo sul giornale che è intorno al 2%, la banca me la vuole far vedere 2,60 più uno spread di 0,70. Perché parte da 2,60 e non da 2? Dipende quale Euribor è, un mese, tre mesi, sei mesi. E dipende soprattutto il calcolo, quello che dicevamo prima a Giuseppe, come viene fatto il calcolo Euribor. Probabilmente la banca per la rata di gennaio prende l'Euribor di dicembre, l'Euribor a dicembre medio, a un mese io lo vedo che era ancora al 3%. Vabbè, ora adesso ho fatto quindi un esempio. Quindi non è che se voi andate in banca stamattina la banca vi fa la proposta per l'Euribor per quello che vede sul giornale. Sicuro. Parametri diversi. Esatto, quello che vede sul giornale probabilmente è quello che pagherà nella seconda, nella terza rata, e sia sicuro che se le fanno un tasso Euribor un mese, tre mesi, sei mesi più 0,70 è quello lì, non è che prende un tasso più alto. Bisogna vedere qual è l'adeguamento, quali sono i tempi di adeguamento. Tutto questo, ricordo ancora una volta, è scritto sul contratto, dovete guardare sempre il contratto. Allora, noi stiamo terminando la nostra trasmissione anche questa mattina, non riesco a sentire Marco da Brescia, leggo io la sua domanda, la rivolgo a Roccia. Tetto 4% per un mutuo di cui ha fatto l'accollo vale anche per quello, dottor Roccia, se aveva una base di una natura variabile credo che non ci siano problemi. Assolutamente sì, vale anche per i mutui cosiddetti accollati. Ultime raccomandazioni ai nostri consumatori, ascoltatori, correntisti, sottoscrittori di mutui, dottor Roccia, gliele affido a lei in 10 secondi. Ma il consiglio è sempre di confrontare prima di scegliere sul mercato ci sono molte soluzioni con grande varietà di scadenze, di indicizzazioni, e quindi credo che non ci sia certo un problema né di vastità dell'offerta né di concorrenza. Bisogna guardare, come abbiamo detto oggi mille volte, bene i contratti, imparare come funziona questa piccola regoletta dell'indicizzazione del parametro. I clienti magari si allarmano come l'ultimo, se non sbaglio, mentre invece il contratto è fatto bene e la rata calcolata giustamente, chi va in banca oggi trova lo spread applicato all'Euribor medio dell'ultimo trimestre 2008. Quindi guardare con attenzione i contratti, confrontare diverse banche e poi scegliere il prodotto più adatto al proprio reddito, alla propria situazione finanziaria futura. Raccomandazioni sulle quali non finiremo mai di spenderci. La rata è diminuita e contemporaneamente aumentata la componente del capitale restituito. Perché? È per fortuna che sta avvenendo così, che dico all'ascoltatore. Magari su questo spiegheremo le modalità. Un piano di ammortamento è giusto che sia così. Infatti, grazie. Grazie a tutti. Ci risentiamo la prossima settimana con Soldi e Dintorni e Salvadanaio. Buon fine settimana a tutti.